Vendo tutto di Matteo Caccia. Lanciarmi col paracadute, attraversare la foresta amazzonica, portare a cena fuori Natalie Portman, imparare il cinese, attraversare l'Atlantico su una nave cargo, incontrare Barack Obama. Questi sono solo alcuni dei desideri che voglio realizzare. Ecco perché vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme, lo so, capita, succede a tutti ed è toccato a me questa volta. Io però ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova, venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo un videoregistratore. Sono le 16:08 minuti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, vi dico anche subito tutto come fanno i bravi conduttori. 80024 0024 per chiamare, 349 238 666, appunto, già sbagliavo. 349 238 6666 per mandargli sms, c'è anche una mail che è vendotutto@radio24.it. Andate a vedervi subito il mio videoregistratore perché è un oggetto che sembra demodé, ma non lo è. Radio24.it oppure Matteo Caccia, vendo tutto. Il videoregistratore è stato il primo oggetto, non questo, questo l'ho comprato qualche anno fa, ma quando è entrato un videoregistratore in casa mia, è stato il primo oggetto grazie a cui ho creato una sorta di associazione, un po' troppo, però di aggregazione di persone intorno a questo oggetto. Facendo cosa? Facendo i cineforum. Però vi ricordate che qualche anno fa, direi col DVD questa moda non è mai arrivata, però è partita proprio col cineforum, con il videoregistratore. Si facevano i cineforum dedicati a cicli di film, cicli di regista, si facevano in casa, all'oratorio, se era un'associazione vera e propria, magari in una sala dedicata. Io ovviamente l'ho fatto per il solito motivo, che era conoscere le ragazze. Però devo comunque a questo videoregistratore il fatto di aver creato una mia associazione. Ecco perché oggi si parla di associazioni, gruppi, gente che si mette insieme ed è interessata a qualsiasi cosa. Abbiamo dato un'occhiata su internet e c'è veramente il mondo, ci sono associazioni storiche, associazioni gastronomiche, associazioni di giochi, carte, scacchi, associazioni di tiro alla fune, associazioni di amanti delle piante grasse, dei bonsai, delle piante carnivore addirittura, poi associazioni di amanti dell'astronomia, di amanti dei minerali, associazioni automobilistiche, motociclistiche. 80024 0024, se e solo se fate parte di un'associazione, mi chiamate, mi raccontate che tipo di associazione, escludiamo quelle sportive, diciamamolo subito perché lì è troppo facile. Associazioni varie ed eventuali, 80024 0024, mi chiamate, mi raccontate che cosa fate in questa associazione, perché poi è la vita dell'associazione che è interessante, che cosa fate, quando vi vedete, cosa organizzate. Alla fine la sensazione è sempre quella che alla fine si facciano delle grandi mangiate, ma soprattutto, ma perché fare parte di un'associazione di piante grasse? Con tutto il rispetto per le piante grasse, guarda, oggi spedisco il mio cactus all'acquirente, visto che è il mercoledì, per chi già non lo sapesse, è il giorno delle spedizioni. 80024 0024, solo per gente che fa parte di associazioni. Ah, giusto, scusatemi, l'altra sera mi ha invitato ad una cena un amico, poi parto col racconto e non ne dico più, di balle. L'altro giorno però ero a casa di cena di un mio amico e mi dice: guarda, ho invitato un po' di gente, così più sia, come diceva l'allenatore del Torino, che non mi ricordo più come si chiamava, più siamo e più vinciamo. No, non era Radice, era... vabbè, mi verrà in mente. Insomma, mi trovo in questa cena con un sacco di gente, si mangia e a un certo punto tutti tirano fuori i ferri per fare la maglia e scopro che era un'associazione di knitting, scritto knitting, che è banalmente la gente che fa la maglia o la calza. Adesso Bonini non lo sa neanche lui, Faggin, tu lo saprai se è la maglia o la calza. La maglia, con gli aghi da maglia. Quindi valgono anche le associazioni di knitting se ne fate parte. 80024 0024, perché voglio proprio sapere tutti i motivi per cui fate parte di un'associazione. 349 238 6666 per gli sms. Ma oggi crepi l'avarizia, vendo tutto, @radio24.it. Torniamo al motivo per cui è nata la mia prima associazione, cioè il videoregistratore. Oggi ne vendo uno abbastanza recente. Fa la sua porca figura. Radio24.it, se volete sentire la sua storia, rimanete lì. Il videoregistratore. Videoregistratore LG senza telecomando, dotato di graphic menu e sistema standard PAL, NTSC e playback long play e REC. La funzione Video Doctor migliora le immagini delle vecchie cassette VHS, colore argento. Dimensioni: altezza 9 cm, lunghezza 27 cm, larghezza 35 cm. Adatto a chi non sa far funzionare un DVD o ha una collezione spropositata di VHS. Valore commerciale 76 euro. Base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800 24 00 24. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. La prima volta che un videoregistratore è entrato in casa mia avevo più o meno 16 anni. E a dispetto della sua età, quel videoregistratore là è vivo e vegeto, funziona e si trova ancora a casa dei miei, impilato sotto il televisore LCD tra il decoder e il DVD. Che poi è quello che succede a tutto ciò che viene superato dalla tecnologia. Non invecchia più. La forza di questi oggetti è proprio quella di resistere all'invecchiamento, visto che oramai ce ne sono altri, nuovi, meravigliosi, che non solo li rimpiazzano, ma che proprio fanno altre cose rispetto a quelle che facevano loro. E quindi rimangono i soli a fare quel lavoro lì. Vale per i mangianastri, per i giradischi, e vale anche per i videoregistratori. Quello che vendo oggi, ad esempio, ha meno anni di quello dei miei, ma non ha nulla di più. Ormai lo usavo solo per vedere vecchie videocassette che non avevo rimpiazzato coi DVD. Però, anche adesso, riguardandolo, penso che questa sia stata davvero una grande invenzione. Una cosa difficile da immaginare prima di averlo tra le mani, prima di imparare nomi assurdi che improvvisamente diventavano di uso comune, tipo presa SCART, o VHS, o puntine. Ricordo ancora le imprecazioni di mio padre quando tentava di vedere una videocassetta senza mettere sulla funzione audio-video del televisore. Oppure quando era convinto di aver registrato la puntata del sabato di Fantastico, invece sulla TV appariva solo la neve bianca e grigia. Ci abbiamo messo un po' a capirne il funzionamento, ma da quel momento la vita da telespettatori non fu mai più la stessa. Era la prima volta che si potevano manipolare le immagini della televisione. Si poteva guardare e riguardare la stessa scena, si potevano fermare le immagini come in una foto un po' sgranata, ma soprattutto si poteva mandare avanti la pubblicità, senza dover cambiare canale. La pubblicità. Che roba. Io ancora oggi mi domando se veramente i pubblicitari siano convinti che la pubblicità serva a qualcosa. Parlo di quella pubblicità vecchia, no? Roba da spot televisivo, quella che ti bombarda alla stessa ora con le stesse immagini, le stesse facce e le stesse musiche. Quella che interrompe i film sul più bello, oppure che parte un attimo prima o un attimo dopo la partita dei Champions. Secondo me qualcuno ai pubblicitari glielo dovrebbe dire, che bene che vada uno cambia canale, male che vada se la assorbisce pensando ad altro. Voglio dire, se la regola del bombardamento di informazioni funzionasse, dopo 8 anni di scuola dell'obbligo, 5 di superiori, e per chi la fa 4 di università, sto paese sarebbe pieno di intellettuali. E invece non è così. Ed è per questo che la più grande innovazione che ha portato il videoregistratore è stato proprio quella di poter saltare a pie pari le pubblicità. Il videoregistratore, che invenzione! Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can go on together with a special smile. La prima cosa che ho imparato a fare con il videoregistratore è stato registrare le partite dell'Inter. A quell'epoca giocavo come terzino destro nella squadra del mio paese. Il mio riferimento era Giuseppe Bergomi, l'unico uomo dotato di un paio di baffi da marinaio già all'età di 18 anni. Mi registravo le partite della Coppa UEFA, che il campionato ancora non lo trasmettevano. E poi mi riguardavo tutti i suoi movimenti, tutte le sue marcature, eppure le sue vaccate. Anche se a dire la verità Bergomi di vaccate ne faceva poche. Il videoregistratore apportò dei cambiamenti soprattutto di carattere sociale e culturale, però. Nacquero le serate cineforum. Per molti fu un supplizio, in realtà. Per altri invece fu la nascita di associazioni culturali volte ad illuminare il buio della provincia italiana. Per me fu semplicemente una possibilità in più per conoscere ragazze. Si chiamava Miriam. Aveva gli occhi scuri e la pelle chiara. L'avevo incrociata fuori da un cinema di Novara. In quel cinema davano Il tempo delle mele e quindi mi ero convinto che le piacessero i film romantici. E allora cosa feci? Organizzai un ciclo di cineforum che aveva come tema l'amore. Che fantasia. C'erano 3 film diversi. Il primo, Laguna Blu, con Brooke Shields. When I'm with you, it's paradise. Il secondo, Harry ti presento Sally, con Meg Ryan. Io credo che si divertano molto. E come lo sai? Lo so, perché lo so. Perché loro... Sì, perché loro... E come lo sai che veramente... Ma che stai dicendo, che fingono l'orgasmo quando... È possibile. Per finire con il pezzo forte, colazione da Tiffany. Vuoi sapere qual è la verità sul tuo conto? Sei una fifona. Non hai un briciolo di coraggio. Neanche quello semplice e istintivo di riconoscere che... Che a questo mondo ci si innamora, che si deve appartenere a qualcuno, perché questa è la sola maniera di poter essere felici. Ovviamente i titoli me li ero fatti suggerire da mia sorella, che ne sapeva di più di me, e che credevo potesse intuire i gusti femminili. Il risultato fu che per 3 sere di fila mi trovai da solo con mia sorella e le uniche 4 compagne di classe che più che ragazze sembravano dei rugbisti. Di Miriam ovviamente neanche l'ombra. Però almeno ora conosco a memoria colazione da Tiffany. Lo spunto Cineforum però non si esaurì con i film romantici, i film così per conquistare il cuore di una coetanea. Il suo apice lo raggiunse nelle visioni pomeridiane a casa di Ettore. Ettore Molina, non so come, era riuscito a trafugare una videocassetta dalla videoteca segreta del fratello maggiore. La voce si era sparsa subito in classe. Non si parlava d'altro che del film porno che Ettore teneva in un cassetto di camera sua. Aspettammo il giorno in cui i suoi genitori partirono per un weekend in montagna e il venerdì pomeriggio ci ritrovammo da lui, con i sudori freddi e la testa che girava prima ancora di vedere una sola scena del film. Il titolo del film era La casalinga piemontese e la bagna calda. Ettore abbassò le tapparelle di camera sua, staccò il telefono e inserì la cassetta nel videoregistratore. Noi ci sedemmo un po' per terra e un po' sul letto e ci preparammo per un'esperienza che ci avrebbe cambiato la vita. La prima scena del film si svolgeva in un supermercato, mentre la protagonista faceva la spesa passeggiando tra gli scaffali, con aria maliziosa. Improvvisamente inciampava facendo cadere una pila di scatolette di tonno che facevano un rumore talmente forte da coprire quello della porta della stanza che si apriva, facendo entrare la Maluz, la signora filippina che faceva le pulizie a casa di Ettore. Ettore riuscì a schiacciare non so come lo stop e fortunatamente la Maluz non vide nulla, ma quell'esperienza mi turbò per almeno una settimana. Roba che... proprio non avrei saputo come raccontarlo a Don Clemente nella confessione del sabato pomeriggio. Nonostante tutto però, nonostante i baffi di Bergomi, la presa a scarte e il VHS, questo videoregistratore è in vendita. Il suo valore è di 76 euro, la base d'asta qui sono 99 centesimi. Se fate parte di un'associazione qualunque, chiamate 80024 0024. Leave my head on the... your car, I take it too far, lay my head on the hood of your car, I take it too far, I still owe money. Più siamo e più vinciamo, lo diceva Borsano, presidente del Torino. Grazie ad Alberto che ce lo scrive. Torniamo invece sulle associazioni italiane, perché come immaginavamo ne esistono a frotte. Ci sono l'associazione italiana di monociclo e, se non ti basta, scuola di circo, Chicco da Pisa. Ma Matteo, secondo te quante pere si prende l'Inter dal Barça? Quello è un altro programma e preferisco non parlarne. Roberto da Livorno, associazione di giochi di ruolo fantasy, perché la vita è abbastanza grigia che le favole vale la pena viverle oltre che leggerle. 80024 0024, perché continuano ad arrivare le telefonate. Abbiamo Antonella da Treviso, pronto? Ciao Matteo. Ciao Antonella, come stai? Bene, c'è il sole, si sta bene. Sei a Treviso, immagino. Sì, a Treviso, fuori dalla scuola elementare. Che... vai ancora a scuola elementare alla tua età? Magari. Che associazione hai fondato, Antonella? Questa associazione si chiama Solaria. Uh-huh. Ed è un'associazione di appassionati di forni solari. Nasce inizialmente proprio per questo gusto qui, di mettersi a cucinare invece che usando il gas. O questo gusto qui quale? Quello di cucinare con il sole? Questa idea di cucinare con il sole, sì. Poi se c'è una nuvola non si cucina niente. Ma come sono fatti questi forni solari, scusami? Sono delle parabole. Il sistema è il vecchio sistema di Archimede, che Archimede utilizzò ovviamente per incendiare le navi. Il sistema è lo stesso, degli specchi a forma di parabola che puntano tutti i loro riflessi del sole in un unico punto focale. Lì ci mettiamo una pentola che è nera. Sì. E arriva a temperature molto alte. Quanti soci ha questa associazione, Antonella, scusami? 6. Ah, è numerosissima. Chi è il presidente? Il presidente è un tale signor Ottorino che questi forni li costruisce. Lui ha un passato di meccanico, si è inventato quest'idea e poi in realtà lui ha cominciato, uno degli obiettivi è quello di portarli in Africa per permettere alle persone di utilizzarli utilizzando chiaro, l'energia chiaro, pulita, solo per energia. Tra l'altro c'è un attimo davvero di grande gioia in regia perché Laura Faggin conosce il signor Ottorino. Meraviglioso. Perché, ma perché non ho capito, Laura, perché è famoso oppure... Ah, ok, niente, perché aveva letto l'iniziativa. Aveva letto dell'iniziativa. Senti, Antonella, ti ringrazio. Quando vi radunate cosa fate? Beh, cucinate, immagino. Cuciniamo. Adesso stiamo sperimentando l'idea della pizza. Perché fino adesso siamo riusciti a far bollire l'acqua, a fare il caffè, a fare lo spiedo. Okay. Però l'idea di un forno chiuso dobbiamo ancora applicarla. Va bene. Con il 25 di aprile faremo una manifestazione. Un pezzetto di noi sarà insieme a Slow Food in una zona vicina. Guarda, a fai una cosa, Antonella. Vai sul profilo Facebook del programma e ci linki il giorno. Perfetto. In cui c'è la... Ok? Va bene? Benissimo. Buona giornata. Grazie. Ciao Antonella, grazie. Ciao. Francesco da Napoli, pronto? Pronto. Ciao Francesco, stai bene? Tutto bene. Tu fai parte di un'associazione che... Allora, in pratica è un'associazione spontanea, però voglio dire, facendo un po' di ricerche su internet, crescendo con gli anni, ci siamo accorti che non eravamo i soli. Solitamente è definita l'Associazione Nazionale Liberazione Nani da Giardino. Ah, ok. Cioè, un gruppo di amici che fondamentalmente, passando le estati adolescenziali in montagna, non avendo niente da fare, nonostante il posto sia sempre molto bello, ma non c'era niente da fare, sì, la sera pensavamo di andare a liberare i nani. Cioè, allora, nani poi biancanive da dentro i giardini. Tradotto, entravate nei giardini e prendevate le statuette dei nani e li mettevate dove? Fuori. Fuori sulla... Il cancello. Ah, ok, li lasciavate lì, quindi. Sì, perfetto, cioè, però fuori, all'esterno del giardino. Non li rubavate, ma li mettevate sul marciapiede. Sì, guarda, io ascoltando, diciamo, i tuoi racconti e tutto il resto, sì, alla fine penso che, voglio dire, il discorso era stare insieme, pur non avendo niente da fare, cercare un'alternativa a una... assenza di per un attimo ho temuto, Francesco, che ascoltando i miei racconti si sembrasse quasi che io giustificassi la liberazione dei nani di giardino, però mi tengo buono l'Associazione Nazionale di Liberazione dei Nani di Giardino. Ti saluto, ciao Francesco. Va bene, ciao, ciao, buona giornata. Ciao. Andiamo a Brescia da Michele, pronto? Ciao, sono Michela. Ah, Michela, scusami. Sì. Perdonami, ho letto male il tuo nome. Tu hai fondato o fai parte di un'associazione? No, faccio parte. No, il fondatore, diciamo, è mio marito. Ok, quindi comunque io una roba casalinga. Un po' di riflesso, diciamo. Che associazione è? Appassionato da lui. È un gruppo di astrofili, appassionati di cielo e di stelle. E quando vi ritrovate, cosa fate? Questa associazione si ritrova tutti i mesi. Solitamente si cerca di scegliere il fine settimana in cui c'è la luna nuova, quindi il cielo è scuro, buio perché certo, la luna non c'è. E ci si trova in un posto in montagna vicino al Passo Croce Domini perché per noi è comodo. Sì. E si guardano le stelle. Fantastico, ma poi finisce in una grande manciata, Michele, oppure no? Solitamente la mangiata si fa prima di uscire. Okay. Michela, grazie mille, buona giornata. Buona giornata a te. Ciao. Ciao. Ultimi non ce la facciamo, l'ultima non ce la facciamo. Bonini mi ha guardato e mi ha detto no. Vi ricordo anche che esiste, mi suggerisce la Faggin, c'è anche l'associazione per la liberazione dei Babbi Natale appesi, quelli che si appendono alle finestre e ai balconi sotto Natale. Dovrebbero non esserci più, ma in realtà su qualche balcone io l'ho visto. Grazie a tutti, a Laura, a Tiziano, ad Alessandro Genovesi e a Paulino Corleoni. Il videoregistratore è là, è sul sito radio24.it oppure sul profilo del programma. Se avete invece la casa piena di vecchie videocassette, non buttatele via, ma vendetele, che qualcuno con il videoregistratore in casa c'è ancora. Love, love, love, wherever you go.